Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Coi figli erano entrati in casa i libri. Lasciamo stare Donna Vincenza, ma Don Sebastiano, che era un uomo istruito, non aveva mai letto un libro. Il suo libro era il giornale e un po' quella medicina delle passioni che era di moda allora ed era arrivata a lui chissà di dove. Ne leggeva qualche pagina ingiallita di quando in quando, perché era piena di notizie, come quella del grosso cane che, assaltato da un cagnolino, si era limitato ad alzare la gamba e fargli pipì addosso. Notizie che lo stupivano e lo commuovevano, ed egli poi travasava a tavola i bambini che ammiccavano tra di loro. Era uno di quegli onesti libri che le persone dotte scrivevano per educare la società, profondamente sentita come una certezza. Libri ispirati a un sincero illuminismo, a un bisogno quasi religioso di aiutare gli uomini a vivere, come deve fare chi sa verso chi non sa. I preti non li vedevano di buon occhio perché non passavano per la sacrestia, e può darsi che avessero ragione, perché essi erano in fondo gli inconsapevoli annunci di quella falsa scienza che oggi inonda le vetrine dei librai, allora neppure esistevano, e sollecita gli istinti invece di educarli. Ma il bello è che i libri d'oggi passano per la sagrestia quando non sono gli stessi preti a scriverli. Forse il guaio è che tutti oggi sanno leggere e scrivere. Comunque, Don Sebastiano non aveva mai letto un vero libro, per la semplice ragione che non ne sentiva il bisogno. I libri erano i libri di scuola, quelli che si studiano, non si leggono. Ed egli li aveva a suo tempo studiati, con qualche profitto, si poteva vedere. In fondo Don Sebastiano non voleva dai suoi figli e per i suoi figli altro che questo, che studiassero e ripetessero su per giù la sua vita e si costruissero la loro come egli aveva costruito la sua. Il guaio è che egli, come tutti, non sapeva che cos'era la sua vita, quale degli infiniti germi che chiudeva nel suo seno e che egli naturalmente ignorava si sarebbe messo a germogliare in ciascuno dei suoi figlioli. C'era per esempio quella tenerezza, quella simpatia che egli, così rude e quasi violento nell'opera, provava verso le cose e le persone, verso la vita in genere, fino, come abbiamo visto, a riempirsi gli occhi di lacrime. Non era questo il vero Don Sebastiano, e ad ogni modo non avrebbe questa componente prevalso nella sua discendenza. Staremo a vedere. Intanto i figli portavano a casa questa novità, che erano i libri, e ciascuno li portava a suo modo. Per la verità, quell'enorme biblioteca di un centinaio di volumi che occupava due ripiani di uno scaffale incavato nello spessore di una parete, in uno stanzino di 3 metri quadrati che era risultato dall'assurdo disegno di Don Gabriele e sembrava destinato a nulla, era stata fondata dai due più piccoli, Sebastiano e Peppino. Gli altri, già grandicelli, avevano impegni di scuola e qualcuno presto avrebbe cominciato il grande esodo verso Sassari, la città favolosa distante 120 chilometri, che erano come 12.000 di oggi, perché a Nuoro le scuole finivano col ginnasio. Solo Ludovico, tra questi, raccoglieva libri, ma lo faceva per conto suo e con idee o con scelte che meravigliavano i due piccoli e li riempivano di rispetto e di timore. Ludovico andava già al ginnasio, a differenza degli altri mostrava una salute cagionevole che costituiva come un leggero diaframma tra lui e la vita, un inconsapevole schermo dietro il quale operava una sua già complessa personalità. Era un ragazzo, si capisce, ma era anche, senza saperlo, un grande malato, E questa malattia, in parte vera, in parte immaginaria, ma che tanto preoccupava Donna Vincenza, lo portava a una scrupolosa osservanza di se stesso, a una studiata giudiziosità che aveva creato intorno a lui un'aria di grandi promesse. Naturalmente partecipava alla vita comune e si faceva voler bene perché, dopo tutto, l'età ha le sue esigenze. Tuttavia non si abbandonava alla semplicità delle cose, che gli pareva e in fondo è brutale, ma sia pure in embrione programmava la sua esistenza, che senza programma gli pareva non avrebbe avuto senso. Si sarebbe detto che con ciò dava una grande importanza a se stesso, ed era vero, ma forse questa era un riflesso della grande importanza che dava alle cose, con le quali non riusciva mai, o non voleva, sia pure di inconscia volontà, a immedesimarsi. Era come uno che, impegnato in una corsa, si fermi a misurare i chilometri prima di percorrerli, e non i chilometri, ma i metri e i centimetri. Questo lo portava, poco più che bambino, a giudicare e consigliare, e gli faceva guadagnare terreno sui fratelli, anche maggiori. Don Sebastiano non si dava pensiero del pericolo che questo avrebbe potuto rappresentare per l'avvenire, né del resto era in grado di rendersene conto. Quel che contava era che il figliolo delicato riusciva a scuola meglio degli altri, e non poteva essere che così, perché lo svolgimento del tema gli era connaturale, essendo il tema una specie di programmazione, proprio quella pista di corsa nella quale poteva misurare i passi prima di farli. Ora, i libri che Ludovico portava nella casa e li teneva ben distanziati da quelli degli altri non erano propriamente libri, erano oggetti di culto, come le cose in genere. Egli aveva come un'astratta intuizione che lo scibile umano era infinito, che al di là di quelle strette vie di San Pietro o delle casette basse di Seuna ci fosse l'universo e l'universo si offrisse alla sua conoscenza. Cosa prodigiosa per un ragazzo a quei tempi e in quei luoghi. Ma la conoscenza non si poteva acquistarla col brancolare delle mani, come fanno i ciechi. Non procedeva dalle cose vicine e modeste per poi estendersi come i cerchi nell'acqua. Bisognava raggiungerla nella sua totalità, quasi tutta d'un colpo, il che non poteva ovviamente ottenersi se non predisponendo con metodo tutti i mezzi, cioè i libri nei quali la conoscenza era raccolta. Bisognava cominciare dalle grammatiche e prima di tutto dall'italiano, poiché era la propria lingua, poi raccogliere i vocabolari, e ce n'erano tanti, purtroppo assai costosi, poi i nomenclatori, i suggeritori di idee che allora usavano molto, poi la grammatica latina, la greca, poi le antologie, cioè i libri letti dagli altri, perché bisognava passare attraverso quelli che già sapevano, poi qualche assaggio di cose assolutamente incomprensibili come la filosofia, poi, insomma, era un'autentica vocazione enciclopedica che si sarebbe realizzata il giorno in cui avesse potuto leggere tutti i libri che raccoglieva. Intanto essi rimanevano intonsi nell'attesa di quel giorno. Li aprivano di nascosto Sebastiano e Peppino quando Ludovico era a scuola e restavano abbagliati dalle parole che intravedevano e si esaltavano al pensiero che tutta quella sapienza sarebbe entrata nella mente di un loro fratello, anzi c'era già entrata per il solo fatto di aver raccolto quei libri. Per loro due i libri erano venuti in casa di soppiatto, come se essi cercassero loro e non loro i libri. Forse era amore, forse era gioco, seppure si possono distinguere l'uno dall'altro. Un giorno Peppino era tornato con qualche cosa che quasi non riusciva a reggere nelle mani tremanti Egli era un ragazzo che tendeva a diventare alto, il viso lungo, lievemente irregolare, illuminato da una giovanile speranza, e naturalmente cercava quel suo minore fratello che sentiva più vitale di lui, anche se appena uscito dal nido. Nel tornare da scuola si era fermato davanti al chiosco dei tabacchi e dei giornali che un siciliano piovuto chissà di dove aveva aperto in uno slargo del corso, proprio al limite di San Pietro. Si chiamava Tortorici. I ragazzi lo facevano montare sulle furie chiamandolo Tortorella e dirigeva la banda municipale, o per meglio dire, dirigeva le prove, perché un concerto in pubblico con quei testoni nuoresi che vedevano i bemolli dove non c'erano, non gli era ancora riuscito di darlo. Tortorici guardava il mondo dallo sportello del suo chiosco e così vide quel ragazzo che contemplava un librettino che gli era arrivato chissà quando ed egli aveva esposto all'esterno quella mattina in mezzo ai pochi libri di scuola. Non sapeva neanche lui che cosa fosse. Erano le vite di un certo Plutarco, in quella collezione dei classici economici Sonzogno che ha contrassegnato con la Biblioteca Universale e la Biblioteca Popolare le passate generazioni. Plutarco, in sé per sé, non voleva dir nulla, era un nome come un altro, e nulla diceva a Tortorici, nulla diceva a Peppino, solo che era un diverso modo di non dire. Per Tortorici era un fondo di bottega, per Peppino era un mistero. E lo guardava, quel libro dalla copertina azzurrina, senza osare di toccarlo. Traduzione dal greco di Girolamo Pompei, leggeva. E messi sullo stesso piano, Plutarco e Pompei rivelavano con Sonzogno, con Milano dove il libro era stato stampato, un mondo così vasto e così lontano che poteva essere l'infinito. Tortorici non vedeva dal suo sportello che i pochi rustici che chiedevano il mezzo toscano o i rari signori che compravano il giornale e non era felice del suo stato. Perciò aveva di quando in quando impulsi improvvisi che erano come proteste contro la vita. E quella mattina ne ebbe uno incredibile perché, guardando quel ragazzo che si era incantato su quel vecchio libro, sporse la faccia barbuta e gli gridò col suo siciliano sardizzato: «E se ti piace, prendilo!» E sì che non amava molto i ragazzi perché gli davano la baia, ma può anche darsi che avesse riconosciuto il figlio di Don Sebastiano, verso il quale aveva degli obblighi, e chi non li aveva. Peppino aveva afferrato il libro come in un fascino ed era scappato. Era fuggito giù per il corso, aveva fatto i tre piani di scale tutto tremante, ed ora le teste dei due ragazzi, l'una appoggiata all'altra, erano curve sulle pagine piene di righe troppo fitte per loro. E il silenzio nella casa era profondo. I classici Sonzogno avevano la copertina azzurra e costavano una lira. La Biblioteca Universale aveva la copertina giallognola, con una figura d'angelo che dava fiato a una tromba e offriva in 100 pagine, per 30 centesimi, una vertiginosa raccolta di scrittori antichi e moderni che la fama aveva già consacrato. La Biblioteca Popolare aveva una copertina in bianco e nero e nei volumetti di piccolo formato, non più di 50 pagine, comprendeva tutto lo scibile. Erano 10 centesimi di storia, di matematica, di filosofia, di letteratura, di tutto ciò che può rientrare nel nome tanto elastico e tanto affascinante di scienza. Anche oggi ci sono collezioni come queste e sono anche belle, ricche, meno costose, fatte le proporzioni, e io stesso non saprei dire in che cosa differiscano dalle collezioni Sonzogno, sparite nel nulla. Ieri però, in un catalogo d'antiquario, ho trovato un Polibio, un Appiano, un Dionigi di Sonzogno a prezzi spaventosi. Nella vecchia casa di Don Sebastiano ci dovrebbero essere tutti. Non c'è nulla che io detesti come la vita passata, ma direi che queste raccolte di oggi sanno di società per azioni e di supermercato. Forse il guaio è sempre quello, che oggi tutti sanno leggere. O forse perché un libro sia un libro e si trasformi in sogno, forse occorre, come c'era allora a Nuoro e in tutti i paesi, il falegname, il maestro del legno, e a Nuoro si chiamava Zerominu, Gerolamo, ma può darsi che fosse un soprannome, che nelle giornate estive alle 2 del pomeriggio, deposta la sega e la pialla, dava fiato alla cornetta e il suono si riversava nei vicoli infuocati, si insinuava nelle case e tutta la vita restava sospesa a quelle note. Anche i cani distesi come morti lungo la poca ombra delle case muovevano la coda. Peppino e Sebastiano, nello stanzino senz'aria, leggevano accompagnati da quella voce e leggevano per la stessa ragione per la quale Zerominu suonava la cornetta, cioè per nessuna ragione, perché gli uomini avevano un pertugio per il quale penetrava il mistero. E mistero erano anche le pagine rosa che avevano scoperto in fondo al volume e contenevano l'elenco completo delle collezioni Sonzogno. Rivelavano la meravigliosa cornucopia che era la vita. Ci sarà stato un pizzico di quel sentimento che faceva lagrimare Don Sebastiano? Io credo di no. E comunque, Don Sebastiano guardava con una certa preoccupazione questi libri che si accumulavano nello stanzino e che gli sembravano troppi, e più l'industria infantile che i ragazzi avevano creato intorno ai libri, perché essi avevano imparato a incartare i libri coi giornali. Si prendeva un foglio, si facevano 2 tagli obliqui in corrispondenza del bordo, si ripiegavano nell'interno i piccoli trapezzi che ne risultavano, poi si operavano altri 2 tagli agli estremi della copertina, sulla quale si ripiegavano i lembi dall'una e dall'altra parte. E cosa più meravigliosa, a rilegarli. Si erano costruiti un telaietto, visto chissà dove, e rilegavano in un volume specialmente i libretti della biblioteca popolare, che erano troppo sottili per stare in piedi nello scaffale, a gruppi di 6, 7, ciascuno secondo l'argomento. A Don Sebastiano tutto questo sembrava un gioco, ed egli non amava i giochi. In casa sua non era mai entrato un giocattolo, se non fosse qualcuno per le bambine morte, ed era morto con esse. Per fortuna non saliva quasi mai al piano di sopra e sempre meno si accorgeva di quel che accadeva intorno. L'assenza del padre nella casa è una terribile presenza, ma io non saprei dare torto nel giorno del giudizio a Don Sebastiano, o almeno non gli darei torto del tutto. Tutte quelle cose che si scrivono sui padri e sui figli, tutti quei drammi, sono per me letteratura, e la famosa pedagogia e paternità a freddo e nient'altro. Ciascuno è padre di se stesso e figlio di se stesso. Questa è la mia idea. Don Sebastiano aveva 7 figli, che sono molto più di un intero popolo per un re, e il suo sogno di laurearli tutti, che l'intelligenza dei figli incredibilmente sembrava favorire, cominciava a realizzarsi con la terribile diaspora dei più grandicelli. Come mi pare di aver detto, per andare avanti negli studi bisognava correre l'avventura della lontana città, di Sassari o addirittura di Cagliari. Questo voleva dire per Don Sebastiano mandare ogni mese 100 lire per ogni figlio, e per il notaio di Nuoro era una cosa che metteva a dura prova le sue forze. Gli sembrava che fosse venuta fuori una nuova misura della sua ricchezza, che un ragazzo 15enne venisse catapultato dalla casa e dal borgo in una città lontana, in una vera città dove non esistevano amici né conoscenti se non qualche notaio importante che non era certo il caso di disturbare, e là, arrivato dopo una giornata di viaggio, dovesse arrangiarsi a trovare una pensioncina presso qualche vecchia zitella, privandosi di tutto che in questo impatto col mondo potesse soffrire, non era cosa che lo preoccupasse e neppure gli passava per la mente. In fondo non era che una posta nella grande partita della sua esistenza, che giocava senza nemmeno avvedersene. La pena era di Donna Vincenza, che vedeva i figli staccarsi dal suo seno, che si alzava prima dell'alba per preparare il viatico, le cose che ciascuno amava o ella credeva che amasse, che sapeva che quello non era un principio, ma una fine. A Natale e a Pasqua il lungo viaggio e la spesa non consentivano ritorni durante l'anno, avrebbe spedito loro quei buoni dolci di mandorla e zucchero, i culurgiones di marzapane avvolti in un'ostia e fritti che essa stessa lavorava con l'aiuto di Peppedda e di qualche tributaria della casa che si prestava per devota e dolente amicizia. Ma sentiva che, quando sarebbero tornati per le grandi vacanze, non sarebbero più stati i suoi figli. Donna Vincenza guardava con amore i libri che i figli raccoglievano con amore e che essa non avrebbe mai letto. Sebastiano, che ancora le saltava in grembo, voleva talvolta leggerle qualche pagina, ma essa gli chiedeva prima se c'erano cose vere, e l'ingenua domanda aveva una sua profondità, perché era l'inconsapevole rifiuto della fantasia. Vi era in questo un punto di contatto con Don Sebastiano, perché anch'egli non viveva che della verità, e il suo mestiere era proprio quello di registrare la verità. E invece la fantasia entrava nella casa austera coi libri e operava silenziosamente, toccando con la sua bacchetta magica uomini e cose. Toni Servillo ha letto Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.